Una buonasera, Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, in compagnia di 451 frammenti sonori. E come ama il mio collega, compagno? Collega un po', oggi no, dai, almeno collega. Almeno oggi. Diciamo. Sì, già collega è un termine un po' così, però qualche volta può funzionare compagno. Dai, compagno, poi oggi siamo anche, sì, infatti, il 25 aprile, ci sentiamo un po' liberati, senza battute, perché l'altra volta ci siamo lasciati con questa liberazione che sembrava un po' più un'evacuazione più che una liberazione. Vabbè. Una fuga. Sì, evacuazione io intendevo. No, ma io, guarda, apprezzo molto questa tua ingenuità nel non volere, cercare di non voler capire la battuta sulla liberazione, evacuazione. Ah, evacuazione. Vabbè, poi te la spiego, no? Perché altri l'hanno capita subito, infatti sono anche un po' arrabbiati, hanno detto, insomma, 25 aprile, Max, trattarlo così. Vabbè, compagnia di Oscar. Sarò un po' rintontito dalla settimana. E Max Mac. Ma è meglio così, che non l'hai capito. Questo discorso di evacuazione, forse perché ti riguarda meno, riguarda più me. Ah, va bene. No, ti sto dando un sacco di input. Ah, adesso ho capito. Capito. Sì, sì. È quel rapporto che ho particolare con una particolare stanza della casa. Sì, sì, Benissimo. Va bene, parliamo insomma di sostanze che attraversano molto questo periodo. Bravo, esattamente quello. Ci sono arrivato, ecco, l'hai capita. E giocattoli sonori, beh, abbiamo iniziato giochicchieremo tutta la sera. I giocattoli sonori è un po' una questione molto addentro, addentro a 451 frammenti sonori, sin dall'inizio. Sapete che quest'anno stiamo un po' facendo non la celebrazione, che sembriamo un po' scemi magari, però insomma, stiamo, come dire, riflettendo, ecco, mettiamola così, su 10 anni di 451 frammenti sonori, che all'inizio era una cosa anche abbastanza informe, seppur insomma con ambizioni anche grosse. Era anche un po' non un collettivo ma una compagnia Brancaleone, sembrava, insomma. Poi dopo abbiamo preso un po' le misure su certe robe, l'ho detto alla milanese, e è nata da un 5-6 anni quel 451 che state sentendo anche sul blog, poi in realtà solo da un anno, ma diciamo formalmente e anche sostanzialmente, visto che lo stile dà anche tante volte la sostanza, qua 451 frammenti sonori, una riflessione quindi che parte da uno dei temi più cari a noi, bambini, giochi, la giocoleria intesa come ludoteca, come momento di liberazione, anche in questo senso non cade a caso il 25 aprile, anche come momento di fuga, come momento di alienazione per altri aspetti, un gioco che quindi si vuol portare su vari aspetti, dal gioco più cattivo, più sardonico, quasi dada in alcuni aspetti, a quello più veramente più ingenuo, più virginale, più veramente bambinesco, fino a un gioco surreale, così quasi visionario, una reinvenzione avanguardistica dell'universo, del mondo e di quant'altro volete voi, magari anche del quotidiano, del nostro piccolo. E giocattoli sonori quindi ritorna, anche se come prima volta, dentro il blog 451 frammenti sonori.noblogs.it, anzi no, che punto dico, .org, .org. Mi sbaglio, qua mi ricorda qualcosa telespettatorio, vero? Giochiamo. C'era lui, il grande maestro della conduzione dei giochi televisivi, no? Sì, poi c'era quell'altro, Gioca Giù, quello lì è un altro. Ecco, sì, premiatissima, 1982. Kinkeleri per iniziare. Eh sì, affrontiamo appunto nel terminal, potremmo dire, di questa stanza di giochi, che poi potrebbe essere appunto assunta come un meccanismo anche provocatorio all'interno di una festa celebrata da moltissimi ormai decenni, il 25 aprile, che ha perso anche molto rispetto a quello che è significato nel 1945, ma questa è un'altra pagina, forse ci torneremo successivamente durante 451. Apriamo questa stanza dei giochi attraverso una formazione che non è mai passata per vari aspetti, anche per casualità, all'interno del programma radiofonico, cioè Climperei. Climperei, un progetto francese non particolarmente conosciuto ma importante, perché ha visto e attraversato collaborazioni con autori sicuramente determinanti sulla scena della musica improvvisativa e sperimentale, ma come progetto proprio unico, portava avanti appunto una ricerca di sonorità utilizzando soprattutto giochi, suoni, giocattoli e anche un modo di affrontare e di modificare l'utilizzazione di certi strumenti classici verso appunto dei rumori, dei suoni piuttosto deliranti e giocosi, con un aspetto sicuramente anche nostalgico, con delle nenie, delle ninna nanne, delle canzoncine deviate che ricordavano appunto un aspetto bambinesco, ma in un'ottica un po' d'adulto. Ma il gioco, come diceva il buon Bene, Carmelo Bene, ha un'importanza completamente differente e quasi ribaltata rispetto allo scherzo, che è invece adulto. Dunque il gioco rientra appunto in una dinamica bambinesca, per certi versi ingenua e scevra da tutte le sovrastrutture della società appunto in cui viviamo, dunque della società adulta. Climperei è un duetto in realtà dei fratelli Pechanaz, francesi, un nome anche piuttosto strano, anche il loro cognome forse un po' giocoso, che appunto lavora con strumenti acustici, con giocattoli, flauti, percussioni, e c'è un collegamento stretto con artisti come Pascal Comelade, Jan Tiersen, Nino Rota, il famosissimo Nino Rota, italiano e compositore di moltissime colonne sonore per Fellini soprattutto. Per Fellini, ed è appunto, si sono diciamo addentrati verso e specializzate verso appunto la musica per bambini, ma anche in un'ottica chiaramente adulta, nel gioco in cui spesso anche noi vogliamo addentrarci, questo continua rimando tra adulto e bambino. Jazz nostalgico e giochi divertenti e sperimentazioni mischiate tutte insieme in un'ottica quasi espressionista a livello musicale, e ci andiamo ad ascoltare uno dei dischi migliori uscito nel 2001, pronuncialo tu, perché io francese proprio, guarda. Tu sei sur les plages en vire. Ecco, a posto, va bene. Ecco, l'ha pronunciato Max, che sì, è più esperto. Io farei veramente ridere i polli. 2001 l'uscita di questo disco. Galline, no, vabbè, però le galline fanno meno ridere dei polli. Climperei, dunque, partiamo con giocattoli sonori. Thank you. Bene, una finale. Non eravamo noi, questo suono era proprio quello di Clint Perey, è caduto dalla sedia, anche questo è un modo delirante, no? Di affrontare, sì. Sì, Clint Perey, questo duo che poi non è più duo, ma è rimasto soltanto un personaggio dei due, di questi fantomatici, chissà se reali fratelli, e con appunto questa caduta, questo rumore che rompe un po' questa atmosfera che ricordava in inizio un certo gioco residenziano, poi dopo si è trasformato pian pianino in una sorta di norota che andava a toccare anche certo Carpi, quello di Pinocchio, insomma, tanto per capirci immediatamente. Pinocchio, in effetti, di Comencini, perché sì, cioè, sono uscite anche altre monnezze di Pinocchio. No, quello è un gioiellino, tra l'altro fatto anche Comencini, che non è che poi fosse così brillante rispetto a grandi registi della commedia italiana, però quel Pinocchio è veramente una cosa magica, assolutamente, fatto veramente anche con pochissimi soldi, ma incredibile come riesce a creare proprio quell'atmosfera da gioco, anche da gioco cattivo a volte, da gioco perverso, come d'altronde la favola di Pinocchio, come un altro grandissimo Pinocchio, stato quello di Carmelo Bene, dove prima lo citavamo appunto Bene, dove appunto questo gioco viene inteso quando si sviluppa in maniera nera, anche abbastanza cattiva, appunto, veniva inteso dai bambini che andavano a vedere sia il Pinocchio di Comencini ma anche quello di Bene, con grande paura, ma grande paura espressa attraverso le urla, quasi una paura divertita, quello che poi piaceva anche molto appunto a Bene, quello che probabilmente anche è il gioco di Clint Perey, ovvero un gioco nostalgico che però appunto si nutre di nostalgie che non vanno soltanto a ritroso, ma che ritrovano un tempo così astratto, inventato, anche abbastanza surreale per molti aspetti. E se con Clint Perey abbiamo trovato quindi queste atmosfere abbastanza sospese, sicuramente con Frank Pall si va verso un gioco così veramente quasi circense, si potrebbe dire. Direi proprio di sì, un gioco circense, forse anche un teatro di pupazzi malati e deviati perché poi i concerti dello stesso Frank Pall sono divertentissimi, perché si presenta con un armamentario di strumenti musicali, artefatti tradizionali e ovviamente di vari giocattoli suonanti che lui stesso prepara e che crea appunto un'atmosfera assolutamente magica nei suoi concerti. Musicista oltretutto che esce dalla scena underground americana, nato a Trenton in Minnesota, musicista assolutamente poliedrico, si è affacciato nella scena musicale attraverso due gruppi importanti come Only a Mother e Scavenger Quartet, che abbiamo anche messo in passato all'interno di 451 frammenti sonori. Musicista che ha attraversato la scena improvvisativa radicale per arrivare poi, come sue produzioni personali, appunto a questa dimensione giocosa, giocattolosa e deviata, ma anche con atmosfere che estremamente affascinanti, con delle piece anche molto lunghe, con suoni elettronici e acustici che modificavano radicalmente ad esempio il percorso di un disco, come ad esempio Remove the Core, che abbiamo inserito nel passato di 451, un disco assolutamente inqualificabile dal punto di vista musicale, dove appunto giochi e dimensioni deviate si alternavano invece a paesaggi sonori apertissimi e quasi cosmici per certe utilizzazioni di synth e di strumenti elettronici. Questa volta l'abbiamo preso nella sua matrice e nella sua attitudine anarchica, non soltanto dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista politico. Lui è un attivista oltre che un musicista, anche dal punto di vista appunto militante e politico, dell'area ovviamente vicina alla nostra, lo possiamo dire, no? Oggi è il 25 aprile, questa aria qua non c'è più nessuna aria, forse aria di casa mia, la famosa canzone quella, Sammy Barbo, aria di casa mia, era Sammy Barbo? Harry di casa mia mi sa che era Sammy Barbone. Un bel personaggio Sammy Barbone, sì, ero piccolo, un po' Black Power, un po', insomma, Black Power un po' ammorbidito, un Black pupazzo. Power di popcorn, insomma. Un pupazzo di Black Power, vabbè. Musicista, appunto, torniamo su Frank Powell, che ha lavorato molto anche con il grande Gene Chatburn e Pascal Comelade, e che abbiamo appunto stasera recuperato da un disco abbastanza recente, 2003, un splendido lavoro, The Back of Beyond, per la Novel Cell Poem. Musicista che ancora fino adesso è uscito un ultimo disco del 2007 molto differente da questo aspetto giocattoloso, dove invece c'è un'anima più intimista, più profonda e anche più seria, più scura, che emerge da questo lavoro Songs of War and Peace, canzoni di guerra e pace. Già il titolo cambia un po' la posizione del musicista, mentre da questo The Back of Beyond c'è ancora questo aspetto giocattoloso, seppur, come giustamente Max mi diceva fuori onda, un aspetto anche malinconico che troviamo molto anche in Klimperei e in alcuni progetti che stasera affronteremo. Intanto godiamoci il grande matto, il grande anarchico della musica giocattolosa, Frank Powell, da The Back of Beyond. We'll be right back. E siamo rientrati in diretta dopo questi due frammenti tratti dallo splendido lavoro The Back of Beyond di Frank Pal, 2003 il disco, un autore che sicuramente riesce a creare queste atmosfere estremamente affascinanti, tra il giocoso ma appunto anche questa coloritura malinconica, intimista per certi versi, è piuttosto interessante all'interno appunto di questo quadretto giocoso, bambinesco, con questa sorta di giocattoli animati che attraversano la gran parte della produzione personale omonima di Frank Pal, musicista che continua ancora a sfornare, come dicevo in precedenza, dei dischi che alternano appunto momenti di grande giocosità, momenti di grande profondità interiore, ma forse anche esteriore, in queste atmosfere, utilizzando strumenti sia acustici che elettronici, come la fisarmonica intrecciata con synth, che creano delle atmosfere appunto tra quasi primordiale o comunque antico, popolare e avveniristico, per certi versi tecnologico e futurista. E questo è un gioco che Pal utilizza spesso in alcuni lavori, in particolar modo nell'ultimo disco, che stasera non ci stava assolutamente dentro per le atmosfere musicali che porta avanti, ma che sicuramente vi consiglio vivamente, uscito nel 2007, Songs of War and Peace. Da Frank Pal, uscendo dunque da questa dinamica giocattolosa malinconica, entriamo a trovare un personaggio che oltretutto ricorda, omaggia un personaggio che ha attraversato in maniera fondante le prime trasmissioni di 451. Eh sì, potremmo dire che è una sorta di omaggio caricaturale, una forse parodia, quindi un gioco che si basa appunto sullo sfottò, sì, ma sfottò anche deferente, una sorta appunto di viaggio dentro le musiche di Aphex Twin, personaggio insomma che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, soprattutto qua a 451 frammenti sonori, che viene riletto, per quanto ci riguarda e per quanto vi riguarda nei prossimi minuti, da Ergo Fitzmitz, progettualità assolutamente assurdista, una sorta di gioco dada tra il parodico appunto, non soltanto legato a Aphex ma alle musiche ad esempio folk popolari, in questo senso c'è sicuramente il collegamento con Frank Pal, e anche a un gioco che rimanda a una sorta di elettronica decerebrata, o se vogliamo quasi degradata, quasi a un elemento acustico, ma una degradazione, una devoluzione, così ricordiamo un altro storico gruppo decisamente giocoso, ovvero Divo, cioè ovvero il rendere scheletrico quello che è il procedimento anzi compositivo, e quindi arrivare a una sorta di appunto di acusticità data da una spoliazione di quell'elemento elettronico, oppure un'elettronica assolutamente fuori dai gangheri, utilizzata in maniera assolutamente fantasiosa, se non addirittura fantastica. In questo caso Aphex Twin viene riletto nella sua storica Window Licker in maniera piuttosto divertita e divertente, se pure con punte anche queste, un po' qualche giochino con qualche pizzichino d'ombra c'è. E poi chiaramente l'omaggio sarà fatto proprio al maestro di gioco, soprattutto degli anni 90, appunto il signor Richard D. James, in questo caso insieme a un altro gigante delle giocolerie assortite, ovvero Mike Panadinas, forse con più conosciuto come Yuzik, anche qua giochini di parole che rimandano a tante faccende sia di Mike Panadinas che di Aphex Twin, il loro storico disco insieme. Beh, poi dopo sicuramente riconoscerete il verbo dentro la rilettura, la risuonatura, andiamo così, giochiamo sulle parole anche noi, di Ergo Fimitz, prima su Aphex e poi appunto il tributo di 451 proprio a lui direttamente. Eh sì, e poi ricordiamo, perché chiaramente manderemo insieme i due progetti che rientreremo dopo il GR di Radio Popolare Network, che scatterà proprio alla fine di questa accoppiata, e ovviamente ci ritroveremo sempre su Radio Città del Capo intorno a 00:45, 1:10, in base ovviamente alla fine del GR di Radio Popolare. Ovviamente ricordiamo ancora buon 25 aprile. Che dice? Con i giocattoli. Sì, giocattoli e liberatevi, perlomeno con i giocattoli, insomma, forse riusciamo a liberare, però quelli belli, autocostruiteli, come fa Frank Pall. Anche un po' Ego Femmiz. Ecco. Thank you. Boo-boo-boo.